Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24. Come sapete, Magazine 24 il sabato e la domenica si occupa dei settimanali, dei prodotti settimanali in edicola italiani e stranieri. Ma questa è una domenica un po' speciale, lo dicevamo già ieri nella chiusura della nostra puntata del sabato. È una domenica un po' speciale per il Sole 24 Ore e un po' speciale anche per Magazine 24, perché oggi il Sole 24 Ore che trovate in edicola presenta due prodotti settimanali completamente rinnovati, come dire, già noti magari ai nostri lettori, ma che hanno diversi cambiamenti, e noi per celebrare la cosa e anche per sfogliarli insieme ai loro responsabili abbiamo invitato qui Fernanda Roggero, che è il responsabile di Nova 24, è il nome completo del settimanale dedicato all'innovazione e alla tecnologia, e Armando Massarenti, che è il responsabile della Domenica del Sole 24 Ore, il supplemento culturale. Innanzitutto buongiorno, grazie di esservi svegliati un po' presto stamattina, ma la domenica andava in qualche modo celebrata adeguatamente. Buongiorno Fernanda. Buongiorno. Buongiorno Armando. Buongiorno. Allora, vi dicevo, è un po' una domenica speciale per noi, perché davvero abbiamo voluto riproporre proporre dei prodotti completamente rinnovati. Ecco, allora, ad esempio, già sul supplemento culturale, che ha per carità una sua storia, una sua tradizione, credo abbia superato i 25 anni, Armando, ma non... siamo quasi a 30. Siamo quasi a 30 anni di storia. 83 è l'anno di nascita, quindi siamo a 28 anni, sembra... Sono parecchi. Che non sono pochi, ecco. Sono parecchi, ma soprattutto è sempre rimasto in questi anni un riferimento, è sempre stato un riferimento obbligato per chi si occupa di cultura. Anche perché voi questo, io ve lo posso dire, se poi andate in edicola trovate conferma, c'è una cosa inedita che riguarda Primo Levi in copertina che è molto interessante. Possiamo dire qualcosa, Armando, su questo? Dunque, potete trovare un inedito, che è qualcosa piuttosto rara, di Primo Levi, una lettera che lui scriveva ad un sociologo americano, un importante sociologo americano, in cui gli parlava sia del progetto, molti anni prima della sua realizzazione, dei Sommersi e Salvati, che sarebbe stato l'ultimo grande libro di Primo Levi, quasi un testamento intellettuale, e in questa lettera si parla anche, siamo nel 65, di un verso della ballata del vecchio marinaio di Coleridge, che lui cita in inglese perché vorrebbe dare alla traduzione in inglese del suo romanzo La Tregua proprio il titolo preso da un verso della ballata di Coleridge, certo, che è sopra un oceano dipinto. Poi trovate tutto naturalmente insieme al Sole 24 Ore, perché appunto questi due prodotti settimanali, ripeto, sono insieme, li trovate insieme al Sole 24 Ore. Infatti, con il supplemento domenicale, il supplemento culturale, noi siamo un po' abituati a chiamarlo così, non vorrei che la parola supplemento suonasse male, qui stiamo parlando di prodotti di settimanali veri, cioè di magazine veri. È importante anche la proposta Nova 24, Fernanda, perché Nova 24 cambia sia il giorno in cui si propone ai lettori, perché eravamo abituati al giovedì a trovare, esatto, la tecnologia, e adesso invece passiamo alla domenica. Ecco, Nova 24, innovazione e tecnologia, cioè prodotti, ma anche tendenze, ma anche ragionamenti, ma anche storie. Sì, allora, visioni, invenzioni, ricerca, cioè quello che succederà fra 30 anni, fra 50 anni, ma anche come la tecnologia oggi già ti cambia la vita. Per cui l'idea che la tecnologia non sia una cosa solo per iperspecialisti, ma qualcosa che attraversa la tua vita quotidiana. Infatti, già la vostra prima pagina di oggi conferma in pieno quello che hai detto, nel senso che abbiamo una storia magnifica, ma voglio farla raccontare a te, di un ricercatore, un italiano, che ha avuto un'influenza enorme sulla nostra vita quotidiana, anche se non lo sappiamo, lo ignoriamo. E poi invece un articolo di apertura che ha affidato a Luca De Biase sulle clouds, sulle nuvole. Adesso chi magari non è avvezzo alle questioni informatiche sarà un po' spaesato, ma più o meno si tratta di questa tendenza dei prodotti informatici, dell'informatica, a collocare non più dentro i nostri computer le cose, ma a metterle in archivi che stanno altrove. Non, sì, ho detto una bestialità, no, spero di no. Sono veramente archivi nelle nuvole, in un iperspazio, diciamo, ed è molto più comodo poi per tutti noi, perché invece di archiviare le nostre foto, le nostre canzoni, i nostri video, tutto quello che ci interessa sul PC di casa, lo archiviamo in questa nuvola, e la cosa bella è che possiamo accedervi da qualunque parte del mondo in cui noi siamo e con qualunque tipo di dispositivo, quindi se abbiamo il telefonino, se abbiamo il tablet, se abbiamo l'iPad, eccetera. E questo rende tutto molto, molto più semplice. La cosa interessante è che questa cloud cambia non solo il nostro mondo del divertimento, del tempo libero, dello svago, ma cambia anche proprio radicalmente il modo di lavorare, perché molte aziende si stanno attrezzando a lavorare in questo modo, per cui, per dire, ad esempio adesso stanno per aprire la nuova sede di Microsoft Italia e non ci sono uffici, ci sono delle postazioni. Ogni mattina sul proprio tablet ogni dipendente, compreso l'amministratore delegato, vedrà scritto dove sarà posizionato quel giorno, dove lavorerà, in quale parte degli uffici dell'azienda lavorerà. Non ci sono telefoni, non c'è uso di carta, per cui è veramente un cambiamento radicale. Grazie Fernanda, quindi questo cambiamento che viene descritto poi da Luca De Biase, che è un cambiamento culturale ma anche operativo alla fine, perché comporta ovviamente anche dei risparmi, ovviamente risparmi, anche una modalità diversa per di lavorare, soprattutto quelle che iniziano, perché non devono comprare server, non devono avere spese di gestione informatica, quindi un grande risparmio. Ecco, invece adesso vorrei che tu ci raccontassi, ma magari leggo l'attacco di questo pezzo. Questa poi è una mattina di incipit, come si chiamano con termine dotto, vi dirò poi perché. Vi leggo l'incipit di questo articolo che trovate su Nova 24 in prima pagina. Dice, comincia così, aperte virgolette, può richiamarmi tra mezz'ora? Sono alle prese con un ragionamento, chiuse virgolette. Questo è come comincia il colloquio con Massimo Marchiori, interrotto per cause di sforzi maggiori. L'articolo è di Antonio Larizza e spiega che questo 41enne matematico di Padova vive per la ricerca. Potrebbe essere un milionario della Silicon Valley, invece ha solo uno stipendio da ricercatore nella sua università. Fernanda, che ha fatto questa giornata così importante? Ci ha cambiato la vita, semplicemente, perché la cosa che ha inventato lui, quindi l'algoritmo che ha inventato lui, che ha trovato lui, è quello alla base di Google. Quindi è quello che poi è stato sviluppato da Larry Page ed è diventato Google. Per cui questo signore in realtà avrebbe benissimo potuto rimanere, poi andare a vivere in Silicon Valley, anzi ciclicamente continuano a richiamarlo. Ma lui ha deciso di rimanere in università per poter fare ricerca pura, e quindi devo dire tanto di cappello. Il fatto della ricerca, la passione per la ricerca, per la cultura è un po' forse la cosa che accomuna sia Nova 24 che la domenica del Sole 24 Ore, no, Armando? Perché sì, effettivamente sono due temi in qualche modo complementari, cioè questa passione per la ricerca, anche se in questo caso poi ci sono, ma lo leggerete nell'articolo di Larizza, ci sono gli aspetti poco simpatici per un ricercatore che voglia restare in Italia. Non diciamo nulla, lasciamo la sorpresa ai lettori, anche per carità di patria. Prego Armando. Diciamo che se investissimo di più in Italia, in innovazione e in cultura, probabilmente anche questo famoso declino di cui molti parlano sarebbe anche un po' meno grave. E devo dire che la cultura è qualcosa che riguarda strettamente anche le cose di cui abbiamo parlato adesso, cioè riguarda Google, riguarda per esempio Google, che cosa ha risolto in fondo? Noi siamo stati sul Domenicale forse i primi a sottolineare l'importanza di Google proprio in rapporto ad un dibattito che era capeggiato da Umberto Eco, cioè quindi dal massimo personaggio della cultura italiana, che diceva che in internet, no, bisognerebbe stare molto attenti, fare quasi delle commissioni di intellettuali che ci dicono quali sono le cose che valgono rispetto a quelle che non valgono. Google ha risolto proprio con quell'algoritmo un problema annoso, cioè ci ha dato la possibilità di capire cosa c'è di autorevole o di meno autorevole attraverso un motore di ricerca. Fernanda vuole aggiungere una cosa. No, se posso integrare, perché questo è il passo successivo. Adesso certo, c'è una discussione. Sì, adesso. Sul fatto del motore di ricerca di terza generazione che deve essere meno oracolo di Delphi, perché noi adesso ci affidiamo, certo, no, ai risultati di Google, invece ci, certo, deve essere più interazione. Adesso è quindi tutta un'altra fase, io sto parlando di 15 anni fa, certo, quando praticamente, certo, muoveva i suoi primissimi passi. E io insisterei comunque su questo, che allora quello che era interessante era che si capiva un meccanismo che era proprio della cultura scientifica, della storia della cultura scientifica e quindi dell'autorevolezza, e una delle caratteristiche nuove e antiche nello stesso tempo del Domenicale è stato quello di fare della scienza una parte integrante della cultura. In questo numero in particolare abbiamo una storia bellissima raccontata da Gilberto Corbellini, un anniversario, una serie di articoli che farà sugli esperimenti cruciali, e un esperimento cruciale sarà quello che Edelman fece 50 anni fa, in cui scoprì praticamente il meccanismo selettivo degli anticorpi, cioè quanto Darwin c'è, diciamo, nella capacità di capire come funzionano gli anticorpi, da cui poi sarebbe nato il darwinismo neuronale e quindi il premio avrebbe vinto poi il premio Nobel per questo. Ecco, per dire quanta cultura e quanta innovazione possiamo trovare anche nella storia, cioè raccontando una storia di 50 anni fa, ma che è proprio alla radice del nostro presente attuale e del nostro futuro, perché questo è un ambito di conoscenze che sta andando benissimo. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, è una puntata un po' particolare, un po' speciale. Sono con me due ospiti, Fernanda Roggero, che è la responsabile di Innova 24, settimanale del Sole 24 Ore, dedicato all'innovazione e alla tecnologia, e Armando Massarenti, che è il responsabile del supplemento culturale, cioè la Domenica del Sole 24 Ore. Perché? Perché oggi presentiamo in edicola una veste completamente rinnovata per questi due prodotti, per questi due magazine, e quindi ho chiesto a questi due colleghi, a questi due amici, di presentarli, di aiutarmi a presentarli. Vi voglio però coinvolgere in un'altra cosa. Vi dicevo prima, è un po' la mattinata degli incipit questa. Perché? Perché da un po' di settimane Antonio Dorrico porta avanti su 7 questa sorta di concorso tra i lettori, ditemi qual è l'incipit dei libri più bello, e insomma, non sorprendentemente verrebbe da dire, ma magari poi chiediamo conferma ad Armando Massarenti, si sta affermando Gabriel Garcia Marquez, perché molti ricordano, molti dei lettori di Dorrico segnalano appunto a 7 che il loro inizio preferito è appunto quello di 100 anni di solitudine, che più o meno dice molti anni dopo davanti al plotone d'esecuzione il colonnello Aureliano Buendia, eccetera eccetera. Peraltro Marquez sembra proprio un esperto di questi incipit, perché lettori propongono la cronaca di una morte annunciata, il giorno che l'avrebbero ucciso Santiago Nazar si alzò alle 5:30 del mattino. Qualcuno ha una citazione per Fruttero e Lucentini, La donna della domenica. Anche qui uno che deve essere ammazzato, sembra che questi incipit debbano avere un po' questo leitmotiv. Il martedì di giugno in cui fu assassinato l'architetto Garrone guardò l'ora molte volte. Ecco, non so se il domenicale ha fatto diverse volte di questi giochi un po' sugli incipit, vero Armando? Ma in realtà proprio in questo numero ci sono una decina di incipit di un dizionario molto speciale. Non siamo in ambito strettamente romanzesco, ma comunque siamo in ambito che riguarda la letteratura, perché facciamo una pagina intera su un dizionario meraviglioso che è stato curato da Anthony Grafton, da Glenn Most e dal nostro Salvatore Settis, uscito negli Stati Uniti, che parla di, gli incipit riguardano queste voci, parla di quanto di classico c'è nella nostra vita quotidiana, cioè qual è il passaggio che ci fa arrivare a polizia a partire da polis, oppure cosa ci fa arrivare alle sirene dell'ambulanza dalle sirene di Ulisse. Ecco, tutto questo dizionario è fatto così, e noi abbiamo proposto, oltre che le riflessioni sul dizionario, proprio degli incipit che sono di voci che vanno da Freud a frammenti, a Galileo, a nudità, a omosessualità, a rivoluzione francese, Venezia e fascismo. Ecco, questi sono gli incipit che noi abbiamo proposto. Possiamo leggerne uno se vuoi. Armando, aspetta, perché io invece ho un incipit che voglio iscrivere sia al vostro concorso sia a quello magari di Dorrico su 7. Io chiedo scusa a tutti coloro ben più bravi di me che si sono cimentati, ma noi oggi in edicola proponiamo anche un incipit di tutto rispetto, perché la domenica è da tempo, già da qualche settimana, il momento dei racconti d'autore. Trovate questi racconti appunto con il Sole 24 Ore, e qui ci giochiamo un incipit di quelli pesantissimi, che dice più o meno così: destandosi un mattino da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò tramutato nel suo letto in un enorme insetto. Se ne stava disteso sulla schiena, dura come una corazza, e per poco che alzasse la testa poteva vedersi il ventre abbrunito e convesso, eccetera eccetera. Ecco, chiedendo scusa naturalmente, perché altri lo hanno letto molto meglio di me, questo è l'attacco riconoscibilissimo della Metamorfosi di Kafka, di Franz Kafka. Lo trovate oggi in edicola. Invece, se vogliamo passare all'altro incipit che tu volevi leggere dopo questo Kafka, facciamogli fare magari anche, mettiamolo in difficoltà questo signore del dizionario. Ma guarda, mi veniva in mente di a proposito anche dei discorsi che facevamo prima e di come poi i saperi si intreccino, per esempio la voce Galileo Galilei. Lo scienziato intrattenne per tutta la vita una intensa relazione con la tradizione classica, sebbene noto per la sua produzione eccezionalmente prosodica, eccetera, eccetera. Si dice qua quanto nel dialogo sopra i massimi sistemi ci sia un continuo riferimento alla letteratura. E ancora di più, se noi pensiamo alla Luna, a come ha disegnato la Luna Galileo Galilei, ci rendiamo conto che non avrebbe mai potuto scoprire che era scabra e ineguale, come lui dice, se non avesse conosciuto qualche cosa di che ha a che fare con la cultura romanistica, come l'arte del disegno. Cioè lui era una specie di pittore rinascimentale, conosceva tutte le tecniche. Certo. Quindi in questo era assolutamente eccezionale, e quanto poi insomma affondava la sua cultura in una cultura classica. In realtà uomo anche di grande tecnologia, e qui torna in ballo di nuovo Nova 24. Dimmi, Fernanda. Perché le storie di oggi, capisco che il confronto può apparire molto azzardato, però le storie di oggi sono le storie dei videogames, che certo, in realtà sono delle vere e proprie sceneggiature meravigliose, e non sono solo per degli appassionati un po' esagerati, perché a volte sono come proprio dei piccoli film con delle sceneggiature molto complesse. Luca Tremolado è stato la scorsa settimana a Los Angeles e ha visto tutti i nuovi giochi che usciranno in autunno, e noi li presentiamo in anteprima, compresi i trailer che andranno sul sito del Sole 24 Ore. Tra l'altro di recente in una puntata di Magazine 24 abbiamo proprio segnalato da un mensile che i videogiochi sono uno dei settori che non ha conosciuto affatto la crisi, cioè ha continuato a crescere senza sostanzialmente accusare flessioni. E peraltro adesso hanno anche degli utilizzi diversi, perché ci sono molti videogiochi educational, per cui vengono utilizzati per educare anche i bambini. Per esempio in Inghilterra lo usano per insegnargli il codice della strada. Grazie mille Fernanda. Abbiamo parlato in questa puntata così particolare anche un po' di anniversari. Volevo dire, domani 20 giugno ricorrono i 60 anni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Diversi dei magazine che abbiamo sfogliato con Anita Panizza ci hanno ricordato questa cosa. Vi segnalo Laura Boldrini, che è poi il commissario appunto governativo su 7, che ha proprio uno suo spazio, una sua rubrica, e ancora un bel servizio, non ho davvero il tempo in questo momento di leggervelo, sull'Espresso, corredato anche da foto e da storie. In questo momento si calcola che ci siano 36 milioni di rifugiati nel mondo, quindi il numero di una nazione di media grandezza. Io vi ringrazio moltissimo. C'era però Armando che voleva precisare ancora qualcosa sugli incipit, capisco bene? Ma più che gli incipit è un inizio di collaborazione. Noi da questo al numero di oggi abbiamo Vincenzo Cerami che scrive per noi, scriverà per noi, e parte con una provocazione praticamente chiedendosi che fine ha fatto la letteratura, e quindi chiedendosi ma esiste ancora questo lavoro che si faceva una volta sulla lingua, sullo stile. Risponde, non vi dico se positivamente o negativamente, ma comunque è una provocazione di grandissimo livello e credo che farà discutere molto. In ogni caso è bello avere delle firme illustri, delle firme prestigiose di questo genere. Allora, una puntata davvero molto particolare. Se volete riascoltarla, vi ricordo che sul nostro sito www.radio24.it trovate questa come le altre trasmissioni. Anita Panizza ed io, Mauro Meazza, vi salutiamo, vi ringraziamo, e soprattutto ringraziamo i nostri ospiti Fernanda Roggero e Armando Massarenti. Buona domenica a tutti.